Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Luca Tremolada, 16:33, partiamo fintamente arrabbiati, fintamente perché non è vero, arrabbiati perché torniamo sul dannoso problema del cambio di operatore di telefonia fissa, dannoso perché insomma è un po' una costante, cioè almeno a 9:24 una mail alla settimana di persone che sono arrabbiate per disservizi, bollette strane, bollette gonfiate arrivano. Noi siamo in collegamento naturalmente con Alessandro Longo, buongiorno. Grazie, buongiorno. Che tra l'altro mi sembra di aver capito che ha ricevuto un documento carino, interessante. E infatti, quindi confermiamo anche la rabbia di cui parlavi tu, perché i problemi di disservizi per gli operatori di rete fissa sono ancora attualissimi. Da ottobre a marzo 2010 ci sono state, mi dice l'autorità garante delle comunicazioni, 383 segnalazioni, e spesso dietro una segnalazione c'è anche più di un utente che si lamenta della stessa cosa, e di questo oltre la metà ancora riguarda casi di servizi non richiesti, attivati dall'operatore illegittimamente. Però poi tra le cause di servizi più frequenti, mi dice l'autorità, ci sono malfunzionamenti. 23%. Sì, 23% malfunzionamenti della linea della DSL e poi 20% cambio operatore di rete fissa. Ecco, noi ci concentreremo su questo, cercheremo di raccontare in maniera un po' diversa dal solito la storia del PIN, ma prima ascoltiamo insieme le news. iPad. Si aprono oggi le prenotazioni per acquistarlo, ma le consegne cominceranno il 28 maggio. Presto quindi gli italiani potranno mettere le mani su questa tavoletta magica di Apple. Vodafone e 3 Italia hanno già rivelato le tariffe per navigare su reti 3G con l'iPad, mentre quelle di TIM sono imminenti. È un successo Super Street Fighter 4. Il gioco per Xbox 360 e PlayStation 3 è stato distribuito in 1 milione di copie a pochi giorni dal lancio. Sarà l'effetto nostalgia, ma il mercato va sempre sul sicuro con la serie di Street Fighter, nata per le sale giochi degli anni 80. Negli anni ha totalizzato 28 milioni di pezzi distribuiti su console. Anche i videogame stanno cedendo al fascino di Facebook. Blizzard, una delle principali aziende del settore, ha cominciato a integrare questo social network nei propri prodotti. Si parte con StarCraft 2, Wings of Liberty. Le news erano a cura di Alessandro Longo, che come avete capito ama i videogiochi. Com'è Street Fighter? È davvero carino, l'ho provato ieri anche. C'è tutto il fascino del coin-op, quindi della sala giochi dell'epoca, però chiaramente arricchito con una grafica attuale, anche un po' un contesto un po' cinematografico. Cioè, comunque il fascino del coin-op non è male. Cioè, stiamo parlando delle macchinine, quelle da bar dove si inseriva il gettone o il 200 lire, mi ricordo, no? Sì, hanno fatto 200 lire, sì, hanno fatto la nostra infanzia. Adesso ormai se entri in una sala giochi è difficile trovare questi giochi qui, si trovano più che altro slot machine. E in certi casi è anche difficile uscirne vivo di solito, perché non tutte le sale giochi sono ben frequentate. Comunque, chiudiamo questa parentesi, anche perché altrimenti andremo un po' lunghi sulla trasmissione. Torniamo a bomba, torniamo al PIN, torniamo agli operatori fissi, torniamo alla scheda. Se pensate che cambiare operatore mobile sia una cosa difficile, lunga e frustrante, non avete mai provato a cambiare quello di casa. È qui che affrontate le vere frustrazioni. In teoria è una procedura rapida e indolore, che dura 5 giorni, ma nella pratica può incepparsi, scontrarsi con imprevisti, far venire il mal di testa a chi ci prova. Da maggio poi c'è una novità che pochi certo conoscono. Bisogna fornire il proprio PIN personale al nuovo operatore che abbiamo scelto. Il PIN, che è un numeretto, lo troviamo nella bolletta del nostro operatore. È una novità voluta dall'autorità garante delle comunicazioni per combattere un problema comune, attivazioni non richieste di linee. Ad alcuni è capitato infatti di ritrovarsi di colpo sotto un altro operatore, senza averlo richiesto, a causa di comportamenti commerciali scorretti da parte di certe aziende. Chissà però se il PIN sanerà davvero la piaga dei servizi non richiesti. Secondo alcune associazioni dei consumatori, è solo una burocrazia in più. E noi siamo andati a interrogarli, le associazioni dei consumatori, anzi noi abbiamo qui in collegamento con noi Marco Pierani di Altro Consumo, buongiorno. Buongiorno a voi. Proprio per questo, visto che stanno già arrivando un paio di sms, apriamo anche le telefonate, ricordo il numero verde 824 00 24 e gli sms è 349 238 6666. Allora Pierani, nella scheda Alessandro Longo diceva, insomma, un po' di burocrazia in più, ma serve o no sto PIN? Ma noi siamo stati dall'inizio contrari a questa idea, per cui se lo chiede a noi, secondo noi è un rischio di bloccare il mercato e non risolverà la problematica dei servizi non richiesti, che ricordiamo non verte solo sullo switching, ma molto spesso sull'upselling. Per cui bloccare il mercato per risolvere una problematica consistente, ma comunque una problematica di comportamento lesivo, ci sembra assurdo. Le regole del mercato dovrebbero permettere il massimo di mobilità. Quindi. Però diciamo che la nascita del PIM non è stata per rendere tutto ancora più complicato, doveva in un certo senso facilitare, semplificare, dico bene Longo? Sì, effettivamente sì, perché ricordiamo che prima era anche peggio, può sembrare strano, ma è così, fino a qualche anno fa non potevi passare direttamente da un operatore alternativo a Telecom Italia a un altro, per esempio da Fastweb a Wind, viceversa, dovevi tornare da Telecom, oppure dovevi, per cambiare operatore di rete fissa, dovevi prima disdire la vecchia linea, aspettare che venisse disdetta, perdere la DSL e poi attivare l'altra, mesi senza internet poteva succedere. Adesso invece con il codice di migrazione, che adesso è diventato PIN, è possibile chiedere direttamente la nuova linea al nuovo operatore, che pensa a tutto e ci farà un passaggio fluido dalla vecchia alla nuova linea, in teoria chiaramente, perché ovviamente ci sono anche gli servizi, come abbiamo visto. Ecco, torniamo ad Altro Consumo, ma in questi casi che cosa può fare un consumatore, tanto per dire una cosa che è bene ricordare, cioè perché chiamare le associazioni? Ma chiamare le associazioni per chiedere soprattutto di ritornare alla situazione precedente e anche essere rimborsato dei danni eventualmente che sono in corsi. Rispetto alla problematica del PIN è un po' presto per dire cosa fare, perché noi la problematica la vediamo strutturale. Siccome il PIN lo deve concedere l'operatore donating, cioè l'operatore presso il quale è attestato il consumatore in quel momento, è evidente che questo potrà essere strumentalizzato per mantenere il consumatore presso quell'operatore, soprattutto se verranno utilizzati dei numeri presso i quali chiedere questo PIN, se si è perso non si trova più, che saranno gli stessi numeri commerciali attraverso i quali gli operatori fanno attività per mantenere i clienti presso di loro. Proviamo, abbiamo in collegamento da Milano Giuseppe, che ha una storia di... Quanti modem ha ricevuto Giuseppe? 6 modem. Ma lei è un'impresa evidentemente. Sì, una piccola, un'attività commerciale. Però nessuno di questi modem era richiesto. No, nel senso che per attivare una nuova linea con Telecom, io non sapevo, al primo modem l'ho rimandato indietro perché non era richiesto, e loro mi hanno detto che per ogni attivazione dovevo ricevere il modem. Dopodiché tutte le volte che l'allacciamento alla DSL non andava a buon fine, non ero né ricontattato né tantomeno avvertito di questa cosa, e per cui periodicamente io per circa 40 giorni tutti i giorni dovevo chiamare il 191 per vedere a che punto era la mia attivazione, e per poi scoprire che dopo qualche giorno era stata annullata e aspettavo pazientemente l'arrivo del corriere con un altro modem che alla fine non ho utilizzato. Oltretutto, a fine di questa cosa, ho ricevuto un 75 euro in fattura di una servizio, cioè per il modem, perché la Telecom fa pagare solo il modem wireless, il modem wireless non richiesto e non ricevuto, ho avuto questo addebito di 75 euro che siamo ancora, diciamo così, in contenzioso. E oltretutto il contratto, cioè la brochure riepilogativa pubblicitaria che io avevo accettato. Insomma, un disastro. Sì, ma sì. Giuseppe, ma lei il PIN ce l'ha? Oppure... Sì, io l'ho comunicato da Wind Infostrada, l'ho comunicato con il codice di immigrazione, non col PIN, che è praticamente, come diceva la signora, la stessa cosa. Sentiamo Marco Pirani per capire se ci sono altri casi di questo tipo e se si è mosso, ma come mi sembra, in maniera corretta. Ma sì, direi di sì, molti altri casi sono su upselling, come dicevo prima, soprattutto sulla DSL di... Spieghi upselling. Sì, in pratica l'operatore che ha un servizio base solo di telefonia eventualmente, la prima cosa che ti piazza è la DSL, anche se magari il soggetto non è interessato, molto spesso ci chiamano anche persone anziane che non sanno neanche cosa sia internet, si trovano in bolletta una DSL quando non hanno eventualmente neanche un computer. E questo è un rischio, l'upselling quindi è il comportamento delle aziende che cercano di vendere ulteriori servizi rispetto a quelli base, ma perfetto. Si va da anche alle segreterie telefoniche famose da tempo di Telecom Italia ad altri servizi. Nova Lab 24. Allora, rieccoci in studio 16.47, siamo in collegamento con Alessandro Longo, giornalista di Nova 24, esperto di TLC, giusto? Sì, diciamo così. Perfetto. Marco Pirani, di Altro Consumo, abbiamo una domanda subito al volo via SMS da parte di Andrea di Genova che si domanda: quindi per chi come me deve cambiare linea di operatore fisso, quindi a maggio cosa deve fare? Deve usare il codice di migrazione o il nuovo PIN? Chi vuole rispondere dei due? Io posso rispondere. Sì, Alessandro. Allora, innanzitutto prendi l'ultima bolletta che hai ricevuto dal tuo operatore, vedi lì troverai il PIN, perché il codice di migrazione sostanzialmente è diventato un po' più lungo e un po' più personale. Sì, Alessandro, ricordiamo che il codice di migrazione c'era da già 5 mesi fa, insomma, sì, poi sì, è stato cambiato con il PIN. Sì, beh, la novità sostanziale è che il PIN è personale, mentre il codice di migrazione era relativo alla linea e quindi poteva essere in qualche modo intuito dagli operatori, utilizzato anche quindi per fare dei cambi operatori illegittimi, mentre il PIN è segreto, una specie di password. E quindi trovare il PIN, andare sul sito dell'operatore che vorresti e attivare l'ordine specificando che lasci un operatore e qui ti viene richiesto anche il PIN. Perfetto. Allora, noi abbiamo una scheda di speranza, l'ho definita, perché insomma fa un po' il punto dei disservizi e insomma disegna un po' quello che è l'orizzonte su questo tipo di disservizi e di inconvenienti. A quanti fastidi, disservizi e inconvenienti è soggetta la vita degli utenti di operatori fissi? Ce n'è una lunga lista e probabilmente il problema più comune è il ritrovarsi in bolletta servizi o opzioni che non avevamo richiesto. Può capitare però anche di perdere il proprio numero di telefono per un errore fatto dall'operatore, oppure di dover attendere settimane o mesi per traslocare la linea in un'altra parte della città. Alcuni invece hanno ricevuto una brutta sorpresa dopo aver scelto di cambiare operatore. Il nuovo aveva assicurato di poter offrire non solo il telefono, ma anche la DSL, salvo poi, a cose fatte, ammettere di non essere in grado di attivare la DSL in quella zona. Si è arrivati al punto che la nostra authority TLC ha detto basta. Ha preparato ad aprile uno schema di delibera per stabilire un sistema di indennizzi sicuri e automatici a seconda del disservizio subito. Tra qualche settimana tutto questo potrebbe diventare realtà, sempre che gli operatori non riescano a opporvisi facendo arenare il progetto dell'authority. Allora, innanzitutto un commento da parte di Longo, non dovremmo commentarle, però le commentiamo lo stesso. Quante possibilità ha l'authority di portare a casa questo risultato? Ma guarda, dire 50 e 50, non sei è così ecumenico. Non è così impossibile, altri progetti all'Authority sono arenati, ma erano più ambiziosi, per esempio obbligare gli operatori a dichiarare una velocità media della DSL, questa era utopia allo stato puro da un certo punto di vista, anche perché tecnicamente non era immediato, lo possiamo dire? Non è facile. Abbiamo in collegamento Massimo da Fermo, buongiorno, buon pomeriggio, anzi, buongiorno. Lei ha un'odissea da raccontare sostanzialmente. Sì, buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. E niente, io volevo testimoniare la mia odissea, appunto, che ho avuto cambio di gestore telefonico. Io ero prima un cliente Tele2, poi sono stato contattato nel luglio scorso, quindi luglio 2009, da un commerciale Telecom per il passaggio gratuito sia della rete fissa che della DSL a Telecom Italia, quindi la linea principale italiana. E niente, il passaggio della linea fissa, devo dire, dopo un paio di settimane era effettuato, il telefono funzionava correttamente, però l'odissea è iniziata con la DSL, innanzitutto perché Tele2 non rilasciava libera la frequenza della DSL. E quindi siamo arrivati addirittura a febbraio-marzo 2010, dove io ho contattato la Diconsum, abbiamo provato a sollecitare in mille modi la causa, ho chiamato tutti i giorni sia Tele2 che Telecom, siamo arrivati a marzo e Telecom risponde che non possono più appunto attivare la DSL, nonostante io ci lavori tutto il giorno, e quindi niente, sono rimasto così senza copertura DSL. Grazie Massimo. Se mi permette, le vorrei dire anche qualcosa in più. Io sono stato costretto ad acquistare una chiavetta internet, che era l'unico modo quindi per connettermi da casa. E devo dire che sono assolutamente ingannevoli, secondo me, perché promettono delle velocità che poi effettivamente non si possono mai ottenere, nel senso che io ho comprato una chiavetta da 7 mega. Noi su questo tema qui abbiamo dedicato una puntata sempre con il prode Alessandro Longo, analizzando proprio tutte le velocità. Confermiamo. Io navigo 20 ore su 24 a una velocità di 2K, 3K, quindi meno della metà di un modem 56K, quindi assolutamente una truffa. Credo. No, questo è un pochino diverso, Alessandro Longo. Beh sì, certo, è un problema di probabilmente di luogo, anche risorse radio in quella zona, molti utenti che fanno peer-to-peer Noi l'abbiamo spiegato, cioè qua i problemi possono essere molteplici, appunto le persone connesse alla cella, il tipo di traffico a cui danno vita, insomma è abbastanza complicato. Sì, infatti il consiglio in questi casi va bene provare a ottenere la DSL da un altro operatore, magari su una linea aggiuntiva, e così saltare e tagliare la testa al toro, ecco, del problema che si è creato evidentemente sulla linea dell'utente. Ecco, un'ultima battuta a Marco Pierani di Alto Consumo. Quanti sono le storie come queste che vi arrivano? Ma a noi ce ne arrivano almeno limitatamente servizi non richiesti, se si parla di telefonia in generale andiamo a numeri incredibili, però sui una cinquantina al mese di segnalazioni. Che chiaramente, ricordiamo, non sono tutte da uno stesso, non sono no, tutte no, sono parlo operatore. Di segnalazioni, stiamo parlando del fisso adesso, certo, no? Quindi certo. Una cinquantina di segnalazioni su problematiche relative. Sì, no, dicevo ben suddivise tra tutti gli operatori. Io vi ringrazio Marco Pierani, ringrazio anche Alessandro Longo, l'appuntamento domani alle 16:30, scrivete a Nova Lab per segnalarci questo e altro. Arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.